Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Mussomeli, 24 ottobre 1998. Non accetta la separazione e fa strage in famiglia. L'autunno era arrivato, nuvole grigie tappezzavano la coperta del cielo. Mussomeli, medievale cittadina arroccata nel cuore di Sicilia, era parata a festa. Un suo figlio era stato nominato ministro della Repubblica. Quella stessa mattina, Gioacchino Mancuso, dalla vicina Milocca, si reca a Mussomeli per incontrare la moglie, che lo ha lasciato, e la loro bambina, Valentina. La moglie è tornata al paese natio, la separazione è problematica. La giovane vorrebbe seguire i genitori in Liguria, il marito si oppone. Gioacchino Mancuso arriva a Mussomeli con in tasca una pistola calibro 9, entra insieme all'assistente sociale Francesca Sorce, 37 anni, occhi come more e sorriso contagioso. A piano terra ci sono i suoceri, la piccola Valentina e Vincenzo, un nipotino. Al piano di sopra si trovano Maria Carmela, moglie dell'uomo, e sua sorella. La discussione al piano terra si intavola sull'affidamento di Valentina. Ben presto degenera. L'uomo è pazzo di rabbia, estrae la pistola e spara, un colpo solo al petto della suocera. La donna si accascia, cerca rifugio sotto il tavolo, lo stesso dove morirà subito dopo. L'assistente sociale solleva Valentina di peso e la porta fuori dalla casa degli orrori. La lascia da una vicina, al sicuro. Vincenzo Lobello vede la moglie afflosciarsi, si arma con un coltello da cucina e si scaglia contro il genero. Mancuso spara ancora, disarma il suocero e lo lascia sanguinante. La sua rabbia adesso è tutto per la moglie, barricata di sopra. Sale due gradini alla volta, vuole ucciderla. La cognata si nasconde in una stanza, la moglie esce sul balcone, invoca aiuto, lui la rincorre, le punta la pistola e spara. Clic, clic, clic. Per tre volte l'arma si inceppa. Mancuso infila le mani in tasca, ricarica la calibro 9 Parabellum con matricola brasa che qualcuno gli ha procurato. Maria Carmela fugge di sotto, trova il padre piangente. Guarda che ha fatto, dice indicando la moglie morta sotto il tavolo. L'assistente sociale rientra, mette in salvo anche Maria Carmela e il piccolo Vincenzo, li spinge fuori, chiude la porta e tenta di calmare l'assassino. Si avvicina, gli parla, lo invita a desistere, prova a farsi consegnare l'arma. Lui spara, due colpi, uno al torace e l'altro al collo. Francesca cade, il suo sorriso si spegne. L'omicida spara ancora, al suocero, due colpi al torace, l'anziano piomba a terra. L'assassino gli punta la canna sotto il mento e tira il grilletto. Risale al piano di sopra, tenta di scappare dal terrazzo. Ma la cognata, di cui ignorava la presenza, si barrica dietro la porta. Gioacchino Mancuso non desiste, l'odio raddoppia la sua forza. Spinge, apre un marco, infila il braccio, punta la pistola in faccia alla cognata, la guarda freddamente, gli occhi iniettati di sangue. Michela pensa a suo marito che si guadagna il pane come muratore, ai suoi figli, non li rivedrà più. Una mano le strappa le viscere. Senza motivo apparente il cognato però desiste, ridiscende le scale, vuole fuggire, ma vede i carabinieri. Apre il gas della bombola per fare saltare in aria la casa. Michela è tratta in salvo. L'omicida minaccia, vi ammazzo tutti. I carabinieri prendono posizione. Il maresciallo Petrachi e il carabiniere scelto Vincenzo Figuccio forzano la finestra del soggiorno. Sono dentro. Un altro maresciallo copre i colleghi. I due carabinieri vedono i corpi dei coniugi e i piedi del tavolo. Non c'è tempo per pensare, non c'è tempo per la pietà. Vengono investiti da una zaffata di gas, portano fuori la bombola prima che esploda. L'assassino li minaccia con la calibro 9. Il capitano Mazzeo tenta di entrare dal balcone mentre i due carabinieri aprono la porta agli altri colleghi. Si proietta dentro anche il colonnello Tucci. Mancuso è distratto dal trampusto. Cominciano le trattative. Mancuso accetta di parlare con Figuccio, lo conosce e si fida. Il carabiniere scelto consegna la pistola al suo capitano e avanza disarmato. Lui è l'assassino. La porta si chiude. Atterra il corpo dell'assistente sociale. L'omicida si punta la pistola alla tempia. Tanto ormai rovinato sono, piagnucola. Altri rumori lo distraggono. Il carabiniere scelto non si lascia sfuggire l'attimo, si scaglia sull'assassino, lo disarma. «Forza, picciotti!» grida. I colleghi fanno irruzione, immobilizzano Gioacchino Mancuso, lo portano via. Le sirene dell'ambulanza spaccano l'aria. Francesca viene portata in ospedale, tutto vano. Di lei rimangono 3 medaglie d'oro al valore civile. Il suo esempio diventa emblema, eroina senza voce, strappata alla vita quel sabato di provincia di molti anni fa, sol perché ha deciso di fare in fondo il proprio dovere. Roberto Mistretta, in libreria con Il canto dell'Upupa, Cairo Editore, 253 pagine, 15 euro.